Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono 15 shot, non va lontano. Devo. Vai, si deve. Se proprio ti fai male, ti troviamo anche un secondo. 15 shot in più per lui. È per secondo. Ma anche più russo, secondo. Ok ragazzi, andiamoci in lobby. Innanzitutto volevo fare giusto tipo il bicchiere di inaugurazione. Questi qua sono i bicchierini che useremo oggi. Ovviamente non lo farò tutto il bicchiere, ma lo farò più o meno così. Io non sono un amante dell'alcol in generale, soprattutto della vodka liscia. La vodka liscia, ve lo giuro, mi fa vomitare, perché non sa di niente, però tipo di distrugge la gola. L'obiettivo della partita di oggi è portarla a casa, cioè vincere. Oggi dobbiamo vincere la partita, cazzo, amici. Cioè, tipo, montare sto video penso che farò tante di quelle risate, soprattutto verso la fine, a vedere come sarò conciato. Questo è un ragazzino che davanti a YouTube beve vodka e racconta che si è fatto 15 sciottini al pub. Si beve uno sciottino ogni volta che sbaglia nel videogioco. Ma io non voglio fare il moralista, figuriamoci chi è che non ha mai fatto da ragazzino questi giochi, a chi beve di più, a chi si ubriaca prima, fino a stare male, fino a vomitare. Quante sere sono tornato a casa che avevo vomitato, ero stato male. Qua nessuno vuol fare il moralista, però sta venendo fuori l'industrializzazione di questo fenomeno della piccola sbornia adolescenziale, che in fondo non dovrebbe lasciare grandi tracce. No, diventa una pratica abituale, diventa una pratica ricorrente, diventa una forma di condivisione di gruppo, perché poi la trafila degli sciottini, dei ciupitos, che sono dei bicchierini che si pagano un euro e si buttano giù uno dietro l'altro per fare gara, e c'è sempre il cretino che in questa gara viene messo in mezzo dagli altri e stramazza per terra nell'ilarità generale. Qual è la differenza fra le generazioni passate? Che tutto questo avviene in condivisione social, tutto questo viene filmato, tutto questo viene trasformato in un momento epico. È accaduto a una ragazzina di 13 anni di Ferrara. Ferrara è una città tranquilla, non si direbbe mai. Anche lei, senza che la madre sapesse nulla, aveva detto: vado a mangiare una pizza e un giro in bicicletta, deve fare una madre. Mica può mettere un rivelatore di alcol addosso a una figlia che funziona attraverso il wifi. No, non può fare una cosa del genere. Non esiste un localizzatore Google per i figli che si alcolizzano. È andata con gli amici, ha fatto il solito gioco scemo, si è bevuta, mi sembra, 18 sciottini, uno dietro l'altro. La madre l'è andata a prendere perché l'hanno chiamata quelli del locale, la figlia era per terra, avvolta nel vomito, con la schiuma alla bocca, in shock etilico. Quante amiche e amici mi hanno raccontato di essere andate a riprendere i figli in shock etilico. La madre giustamente ha denunciato il locale. La legge dice che non si può dare dei superalcolici a dei minorenni. Il locale è stato chiuso. Adesso la notizia che riporta oggi il Corriere della Sera, che la bambina è minacciata, arrivano messaggi sui social network: sappiamo chi sei, che scuola fai, che cosa hai fatto, e giorni contata, bambina del cazzo, viene scritto. Perché? Perché la gente non tollera qualcuno abbia rotto questo circolo di omertà, per cui nei locali in fondo gli danno da bere ai bambini, perché in fondo fanno clientela. C'è sempre qualcuno che chiude un occhio, c'è sempre un escamotage. Voi che ne sapete di questa roba? La state gestendo nella vostra famiglia? Non voglio fare il discorso del moralista, del proibizionista. È giusto che i ragazzi facciano anche le loro esperienze, ma oggi il fenomeno sta diventando un fenomeno industrializzato e non esiste la lettura industriale o la versione industriale serializzata della trasgressione. Se no diventa un'epidemia. A tra poco. 800 24 00 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Noi abbiamo un bar e le dico che il problema vero è che noi ai ragazzi a un certo punto, quando abbiamo qualche dubbio, chiediamo i documenti, e tra loro questo si sa. Nel nostro bar negli ultimi anni c'è stato un calo, perché i ragazzi bevono e vogliono bere e trovano bar che gli danno l'opportunità a 16 anni di bere il mojito, di bere i cicchiti, di bere qualunque cosa, di ubriacarsi, perché il sabato e la domenica nei weekend per loro c'è la cultura dello sballo, non c'è la cultura del bere. Poi certo ci sono le famiglie che danno le indicazioni, che danno i principi di base, ma tra loro c'è la cultura dello sballo, e io di questo non ho sentito parlare. Io le dico che se non ci preoccupassimo di questo nella nostra attività, avremmo probabilmente un 50% di più di fatturato, e le dico che quello che penso è la mancanza di controllo. Non ci sono i controlli nelle attività commerciali, arginerebbero sicuramente. Di fondo deve esserci ovviamente una cultura della famiglia, e questo di base. Ma poi questo è il proprietario di un bar che avevamo intervistato noi in una vecchia puntata, e ci raccontava già molto tempo fa esattamente il problema di cui stiamo parlando oggi. Lui dice non ci sono controlli, ma quante cose vanno controllate ogni sera? I furti, le rapine, gli spacciatori, i terroristi, la quiete pubblica, le persone che lasciano la macchina in doppia fila, i gattini che rimangono sopra gli alberi, chi rumoreggia, chi fa schiamazzi notturni, e anche i bar che danno da bere ai bambini. È possibile che non possa esistere una maniera per diffondere a priori una cultura sul, diciamo, la moderazione perlomeno dello sballo, che non diventi qualcosa di negativo, qualcosa di pericoloso per la salute? Abbiamo al telefono la dottoressa Franca Beccaria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, la dottoressa Beccaria è una sociologa, è una dei soci fondatori di Eclectica, che è un'agenzia torinese che realizza dei progetti di ricerca, formazione e intervento sui temi della salute e degli stili di vita. La dottoressa Beccaria l'avevamo già sentita in un'altra puntata, mi pare, è autrice del volume Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, giunti 2013. In questo momento voi state proprio realizzando una ricerca su questo fenomeno, sul fenomeno della, diciamo, la buffata alcolica, che poi ha un suo nome ben preciso. No, in realtà, dicevo alla persona che mi ha contattata, stiamo realizzando una ricerca sul rapporto proprio dei giovani con le norme, con le leggi che riguardano le bevande alcoliche, la somministrazione, il consumo, eccetera. Quindi è proprio il tema della trasmissione di oggi. Purtroppo non riesco ad anticiparvi molti risultati perché sono veramente in corso di elaborazione. Ma perché vi siete sentiti, diciamo, di dover fare questa ricerca? Alla base, quello che dicevo io, la base è quanto lei ha detto, è quello. nel senso che noi, io mi occupo di questo fenomeno da 25 anni, e il tema della buffata alcoliche, degli eccessi, è sempre stato al centro dei nostri interessi di ricerca, e certamente il tema dei minorenni è un tema interessante sia per la cultura dello sballo di cui si parlava prima, su cui poi bisognerebbe fare molti distinguo, molte precisazioni, ma certamente c'è una visibilità di questo sballo che avviene nelle strade, che avviene nei locali pubblici, mentre un tempo avveniva di più nelle feste private, nei garage di casa. Quindi c'è stato un cambiamento nei costumi sociali, perché guardi, io non so quanti anni abbia lei, dottoressa Beccaria, non glielo chiedo. 50. Ecco, perfetto. Quindi nessuna generazione è stata indenne. Non mi dica che lei non è mai successo da ragazzina di una sera alzare un po' il gomito con gli amici. Ma perché una volta il fenomeno non veniva considerato pernicioso? È qualcosa che al massimo uno si prendeva una lavata di capo, lo teneva nascosto. Non era, diciamo, quello il fenomeno per cui si alzavano i campanelli, si accendevano i segnali di allarme. Perché oggi è diventato un fenomeno così diffuso? Non voglio dare la colpa alla solita idea della condivisione, dei social, ma perché è diventato un rituale collettivo, quello che una volta era un gioco che si faceva fra maschiacci, accadeva quando uno faceva il militare e nelle uscite con gli amici si facesse la passatella, si trovava una scusa per far bere una persona e portarla allo stato estremo sopportazione etilica. Perché oggi lo fanno i ragazzini? Cosa è cambiato? Allora, intanto, come diceva lei, nelle nostre ricerche, purtroppo la ricerca su questo tema in Italia è piuttosto recente, non copre la nostra generazione, insomma, però le ricerche ci dicono che questo tipo di sballo, soprattutto il gioco alcolico, è trasversale a tutte le generazioni. Quando noi intervistiamo i settantenni, ce lo raccontano, cioè voglio dire... Ma sono fatti loro, sono adulti, consapevoli? No, rispetto a quando erano giovani, voglio dire, è un comportamento che c'è sempre stato, quello del gioco, della ricerca del bere estremo. Oggi qual è la differenza? La differenza è che sicuramente riguarda le ragazze, mentre un tempo le ragazze erano assolutamente spettatrici, raramente venivano coinvolte. Sì, era una prova quasi di virilità, di reggere l'alcol, lo facevano, dico veramente, negli ambienti militari e negli ambienti, diciamo, dei maschi scavezzacollo di provincia, la sera si faceva la passatella, si beveva. Io vivo in provincia, io vivo a Cuneo e da ragazzina la festa dei coscritti era una festa dove i maschi per una settimana si ubriacavano in questi modi qua, cioè bevevano tutti i giorni, tutto il giorno in maniera estrema. Le donne raccoglievano i pezzi poi al massimo. Esattamente, ed era un rito di passaggio. Quindi oggi abbiamo le ragazzine coinvolte, abbiamo sicuramente un abbassamento dell'età che è dovuto però a un abbassamento che riguarda tutti i comportamenti adolescenziali, no? In generale, cioè c'è proprio una precocità oggi che ovviamente include anche l'alcol, ma forse l'aspetto più originale di oggi è che queste abbuffate avvengono in locali pubblici, nelle strade, all'esterno, mentre un tempo avvenivano in luoghi privati, nel garage, nella tavernetta, e inoltre le conseguenze nella maggior parte dei casi venivano gestite dal gruppo. Nel senso che si cercava di mettere sul divano la persona che aveva bevuto troppo, magari stava vomitando, stava male, ma non ci si guardava bene dal chiamare i genitori. Oggi li trovi stramazzati per strada, questa è la differenza. Oggi li trovi stramazzati per strada e dunque c'è anche un'attenzione, voglio dire, sociale, per cui uno chiama il 118 quando prima non lo chiamavi. No, quindi c'è una visibilità del fenomeno, anche perché vorrei dire questo agli ascoltatori. E le famiglie denunciano i locali ogni tanto. E le famiglie denunciano i locali. Prima di arrivare ai locali le voglio dire una cosa, ricordiamoci che il numero degli astemi tra i ragazzini è in costante aumento e il numero degli eccessi, dei consumi cosiddetti ubriachezze o binge drinking, quello che è in diminuzione tra i minorenni. Questo è un dato importante perché vuol dire che da un lato diminuisce il comportamento a rischio, ma dall'altro, là dove c'è, o è più eclatante, cioè si beve proprio di più in un'unica occasione, o è più visibile. Fermiamoci un attimo, dottoressa, voglio sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24, voglio confrontarmi anche con quella che è l'esperienza del pubblico. Francesco, buongiorno. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione intanto. Allora, io con la dottoressa sono abbastanza d'accordo, anche se devo ammettere, io vengo da faccio distribuzione e produzione di ghiaccio alimentare, come puoi immaginare ovviamente il ghiaccio dentro l'alcol va a braccetto. Sì, perché diciamo diluisce e aumenta la quantità di bevanda che si manda dentro, quindi è chiaro. In assoluto. E noi devo dire che l'80% del fatturato lo facciamo sui locali e sull'alcol dentro i locali. E la cosa più assurda, portavo la mia esperienza, io comunque ho 27 anni e io di sbornie comunque me ne sono preso assai, e la verità è che è un aumento, tantissimi ragazzi 15, 16, 17 anni bevono male, bevono senza nessun senso, con alcol di bassissima qualità. Anche perché non sanno, quando io mi faccio servire in un locale uno spritz, me lo riempono di ghiaccio con una goccia di spritz, dico scusi, io lo voglio senza ghiaccio, me lo dà freddo ma senza ghiaccio, perché sennò bevo acqua schifosa. Questo viene da un modello spagnolo dove il business dell'alcol è una festa. È un business messo proprio dentro la contabilità, dove loro mettono del ghiaccio, si fermano al secondo cubetto e poi caricano di gassosa. Il vero problema nel sentirsi male sono le gassose, è la Coca-Cola, è la limonata, è la tonica e il ghiaccio stesso. Adesso ovviamente è un conflitto di interessi perché io parlo di ghiaccio perché produco ghiaccio. No, ma non è molto interessante. Resti lì, il ghiaccista resti in ascolto che mi interessa. Beppe, buongiorno. Così aggiungiamo un altro esperto, diciamo, dell'indotto. Beppe, lei cosa fa? Sì, io faccio l'autista delle ambulanze dal 91 e devo dire che ogni volta che raccogliamo, come diceva la persona che è intervenuta prima, in effetti adesso si raccolgono più per strada e prima si gestivano più in famiglia, ma quando raccogliamo qualche ragazzino per strada, grazie a Dio solo ubriaco, poi arrivano i genitori e sicuramente li sostengono col medico che suo figlio queste cose non le fa, che gli hanno fatto bere l'alcol a sua insaputa, che poi se c'è anche della droga gliel'hanno sciolta ma lui non se ne è accorto, finché questi o li fermano i genitori o da noi capita spesso si schiantano contro un platano e la soluzione è far causa al comune perché c'era il platano vicino alla strada. Allora lei mi racconti in che condizioni, con che frequenza raccatta ragazzini annegati nel vomito per strada? Ogni weekend azienda, adesso non dico da dove sono io, ma ci sono bar conosciuti, uno è stato recentemente sospesa la licenza nel parco della cittadina. Mi fa un quadro della scena che vede il più frequente, cosa vede quando arriva con l'ambulanza? Ah, vedo uno a terra nel vomito, se è andato bene, svenuto, appoggiato per terra, se no con i denti rotti perché è caduto di faccia. Alcuni ragazzi ubriachi come lui intorno, alcuni che piangono, ragazze che piangono, altri che per difenderlo, ubriachi, marci, dicono ma no, non ha bevuto tanto, ha bevuto come me, ma stanno in piedi a malapena anche loro, e altri che ridono. Questa è la scena standard. Voi lo raccattate, gli fate la prima terapia, lo portate il pronto soccorso ovviamente, essendo minorenne, chiamano i genitori, poi il pronto soccorso lo stabilizza, poi adesso arriva l'inverno, lo mettono al caldo perché sostanzialmente questo magari è un po' che era e qual è, diciamo, la prima scena che vede quando arrivano i genitori, mamma e papà? Oh poverino, cosa ti è successo? No, guardi, ci deve essere un errore perché lui non ha mai bevuto, non beve, gli hanno fatto uno scherzo, ma sicuramente gli hanno nascosto l'alcol nella Coca-Cola, lui non se n'è accorto perché sicuramente lui è uno che non beve, queste cose non le fa. Poverino, cosa ti è successo? Adesso mettiamo a posto tutto. Poi se non è il primo a essere soccorso, perché magari c'è gente più grave di lui, scena madre dei genitori in pronto soccorso perché il loro poverino non ha la priorità davanti al mondo. E il bambino che fa? Piange, chiede scusa? Il bambino appena si sveglia piange, chiede scusa, dice mamma non lo faccio più, però lui è l'unico a non sostenere di essere stato vittima di uno scherzo, lui lo sa benissimo che l'ha bevuto. Fermi lì, si fermi il ghiaccista, si fermi il conducente d'ambulanza, devo dare la linea un secondo, poi riprendo proprio con voi due, perché siete importanti come testimonianza. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Mentre oggi questa challenge consisterà in cui io e lui faremo una sfida. In cui lui. Allora, mettiamo della musica. Raga, già sono ubriachi, raga. Il primo che indovina la musica. Vede, allora. Dai, vale così. Dire il titolo. Ah, ho capito. No, no. Chi indovina bene. Vai. Oh, è giuro. Primo. Butta. Cazzo, questa qua la conoscete, raga, da dove fuoco. Oh, l'ha detto già il nome dell'artista. Ah, questo è il Clementino. Dove? Anche questi ragazzini stanno davanti alla loro videocamera per pubblicarlo poi su YouTube, facendo il giochettino di chi non indovina la canzone, si beve un bicchierino e vanno avanti. Solo il gioco, non so, divertirà soltanto loro a vederlo, è anche abbastanza triste. E Maurizio, buongiorno. Maurizio? Sì, buongiorno. Ci sei? Sì, io sì, da qua, da un bel pezzo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io ero titubante se intervenire o meno, però vabbè, sinceramente... Non è che rischi la galera, non rischi... No, ma sicuramente vado controcorrente, perché quello che io vorrei dire, cioè basta con questo giustificare i ragazzi, che poi dice poverino, non beve mai, coccolarlo. Io so soltanto una mia esperienza personale, ho 65 anni. E quello è il cuore di mamma, sempre esistito nel nostro paese. Senza dubbio, permettimi di raccontarti questa esperienza mia personale. 15 anni, bravata con gli amici, bevuta pazzesca, una quantità enorme di birra, sono arrivata a casa, mia madre, mio padre non si è alzato dal letto perché sennò mi avrebbe ammazzato. Mia madre me ne ha date talmente tante che io per il resto dei 50 anni che ho trascorso non ho più avuto nemmeno lontanamente l'idea di bere più di tanto. T'ha reso astemio le botte della madre? No, io bevo regolarmente. Vabbè, ma no. Quando arrivo a un certo punto automaticamente mi fermo, non sono mai stato giustificato. Quindi qual è il tuo consiglio? Menare i ragazzini se tornano a casa con l'alito? Aspetta, che aspetta, non ho finito. Mio figlio, 16 anni, sì, scendo in garage, lo trovo insieme a quattro amici e stavano bevendo birra a volontà, fiumi. L'ho gonfiato come Dio comanda, Adesso è quadro direttivo di un istituto di credito, si è preso due lauree, è un ragazzo perfetto, non ha più bevuto, gli è bastata la lezione, non la giustificazione. Vabbè, concludo con una cosa che sicuramente non incontrerà i favori di chi mi sta sentendo. Eh no, perché sai, è un reato gonfiare i figli, però dai, continua. È un reato? Sì, ma io so che al momento giusto dargli una bella lezione gli può servire per il resto della vita. ognuno a casa sua così. Prova a fare quello che vuole, però ti avverto, l'istigazione a gonfiare reato, un figlio, ma io penso sia ancora peggio lasciarli fare, giusto? Sì, non è il peggio, non peggio, caro. Mi dispiace doverlo dire, anch'io vengo da famiglie in cui era lecito menare i figli, ma ti dico, è un reato, non è la soluzione dire gonfiate i figli. Sì, tu puoi continuare quanto vuoi, non credo che la soluzione sia dire gonfiate i figli. Un genitore che mette le mani violentemente addosso a un figlio, anche se minorenne, compie un reato. È giusto che sia così. Il genitore non ha diritto di vita e morte sui figli, deve usare dei sistemi educativi che prescindano da mettergli le mani addosso in maniera violenta. Non credo che per fare un dirigente di banca occorra gonfiarlo se lo trova nel garage con i quattro amici. Una maniera, secondo me, non approvo, anche se poi a volte può venire la tentazione. Voglio concludere con i due ospiti che ho tenuti sospesi. Ghiaccista, consiglio ai ragazzini che si vengono a riempire il beverone di ghiaccio, dire lo voglio senza ghiaccio, c'è qualcosa? No, il punto è differente, il punto è che tutta la filiera dell'alcol, dell'industria alcolica deve essere più regolamentata, quindi dall'alcol che deve essere un alcol pulito al ghiaccio deve essere un ghiaccio certificato, normale, buono, con un'acqua depurata, e tutto nell'insieme rende la bevanda molto più... Anche perché il ghiaccio fatto in casa con l'acqua non po' più pulita è la quantità di posti, parliamo di discoteche, bar, cocktail bar, dove i ragazzi si massificano e bevono le file infinite, con i barman che buttano giù alcol che non si sa da dove, staccano i becchetti, li attaccano i becchetti, con alcol con ghiaccio prodotto da macchine non pulite. Vabbè, tu adesso c'è la fissazione del ghiaccio, è chiaro, non ci pensavamo, ma c'è anche il fattore ma è importante, ghiaccio. È importante perché sia un alcol di bassa qualità, compreso con dentro un prodotto alimentare che è il ghiaccio di bassa qualità, fa un cocktail esplosivo dove tu ti bevi due cazzate, scusate il termine, ma ti senti male, continui a bere, poi ci metti dentro una sigaretta, poi nel contesto gira qualsiasi altra tipologia di sostanza, ed è con là che... Però hai fatto un punto interessante, va considerata anche la qualità, di quello che si beve. Va bene, conduttore di ambulanze, dal tuo punto di vista, dammi se possibile un'istruzione ai genitori prima di arrivare piangenti a vedere il proprio angioletto che è scivolato in dei compagni cattivi che con l'imbuto l'hanno costretto a bere o gli hanno fatto un clistere di alcol perché non si sa come se no se l'hai preso. Purtroppo qua mi cogli impreparato perché non ho figli e quindi non ho consigli. L'unica è... accettare, cioè nel senso, non partire presupposto che siete i genitori dell'angelo perfetto, affrontate quello che è successo. Che vostro figlio, un po' testa di cazzo, potrebbe anche esserlo lui, ecco questo. Come lo siamo stati quasi tutti. Ecco, fatevene una ragione, che siete dimenticati quanto lo eravate voi. Dottoressa Franca Beccaria, torno a lei. Abbiamo avuto una carrellata di testimonianze dal vivo, vediamo il suo commento e come possiamo integrarle. Allora, io le ho trovate tutte molto interessanti e utili. Allora, partirei dal punto di vista dei ragazzi. Negli ultimi anni, da quando è stato introdotto il divieto di vendita ai minori di 18 anni, cioè nel 2012, io ho intervistato... Lo trova utile lei questo divieto, professore? Sì, assolutamente sì. Sui 18 anni sì, non alzerei l'età, poi magari questo può essere oggetto di un'altra trasmissione, ma sui 18 anni sì, ma la cosa interessante non è che io lo trovi utile o meno, è che i ragazzi lo trovano utile, cioè parlando con i ragazzi loro condividono questo divieto, anche quelli che trasgrediscono, quindi è un segno importante del mondo adulto, perché le regole devono esserci, dobbiamo farle rispettare, consapevoli che i ragazzi hanno anche il compito di trasgredirle, nella norma, la trasmissione ma chiaro, della regola. Sennò che gusto tutti ci sarebbe, i ragazzi, ciò che i ragazzi denunciano è esattamente ciò che state denunciando nella trasmissione, cioè che i locali in Italia nella maggior parte dei casi non controllano, cioè si fidano, qualcuno chiede l'età, capisce che lei se chiede l'età tutti hanno 18 anni almeno. Quindi questa è una richiesta esplicita che viene proprio dai ragazzi, fate applicare la norma. Dopodiché dovrebbero chiedere un documento per essere sicuri? Un documento momento, per esempio, certo, dovrebbe essere vedere un barista, in un pub affollato il sabato sera, che non fa altro che prendere e staccare i beccucci dalle bottiglie, come ha detto il nostro amico, che poi deve chiedere anche i documenti a un gruppo di ragazzini assatanati, è difficile. I nostri ragazzi, che ormai viaggiano tantissimo, non si stupiscono quando vanno in Nord Europa, quando vanno in Inghilterra, gli richiedono i documenti, quindi è fattibile, non è che solo i nostri bar sono affollati. E sono posti dove ma si deve. Ecco, però io vorrei dire un'altra cosa su questo. Non è che facendo applicare la norma che abbiamo, facendola applicare risolviamo il problema, perché i ragazzi già adesso, laddove viene applicata, vorrei anche difendere alcuni locali, perché cominciamo ad avere dei locali che chiedono documenti o che introducono il sistema di braccialetti colorati a seconda dell'età dell'ingresso, però laddove c'è questa norma loro si organizzano perfettamente per bere, per far acquistare ai maggiorenni le bevande alcoliche, le acquistano prima di andare nei locali. All'emporio fruttivendolo col ragazzo del Bangladesh ti dà qualunque cosa, non è che esattamente quello... Ma questo avviene in tutto il mondo, c'è negli Stati Uniti che sono i più rigorosi rispetto all'applicazione dell'underage drinking, del bere dei minori, fanno la stessa cosa. I dati dei consumi e degli abusi tra i 15 e i 16 anni sono simili ai nostri o anche più alti, quindi noi dobbiamo essere consapevoli come adulti che dobbiamo non solo avere le norme, fare in modo di applicarle sapendo che non eliminiamo il problema. Dall'altra parte c'è il discorso dei genitori. Allora, è un'altra attesa che hanno i ragazzi, è di avere dei genitori attenti e severi, nel senso che se un ragazzo torna a casa ubriaco si aspetta la sgridata, non le botte, concordo con lei, le botte no, cioè, botte, ma la sgridata metodo arcaico, o la punizione. Cioè, abbiamo molti modi per punire senza bastonare un ragazzo, possiamo ovviamente limitare gli orari, possiamo togliergli qualche cosa che è atteso, qualche premio che magari, voglio dire, noi genitori sappiamo qual è il sistema, ma certamente abbiamo ormai genitori che sono troppo difensivi rispetto ai figli, e mi è molto piaciuta la testimonianza del guidatore dell'ambulanza. Cioè, i genitori partono dal presupposto che i propri figli sono dei santi, non è così. I nostri figli tutti, e fa parte del percorso di crescita, ne combinano, trasgrediscono, fanno delle cose che noi non vorremmo sapere. Nel momento in cui però ne veniamo a conoscenza, dobbiamo svolgere il nostro ruolo di adulti e quindi dare dei segnali, e questo loro si attendono. Questa cosa che le dico non viene solo dagli studi sull'efficacia dell'educativa o della norma, ma la cosa che mi colpisce è che lo chiedono i ragazzi questo. I ragazzi vorrebbero avere degli strumenti che li aiutino. Sì, ma io penso anche di capirlo, perché alla fine, alla base di tutto questo, esistono delle logiche perverse di gruppo che sono sempre esistite, oggi probabilmente sono ancora più pressanti. Bersi 18 bicchierini di superalcolico per una ragazza non ha mai bevuto è una cosa orrenda, è contro la sua volontà, non è una cosa che gli fa piacere, sicuramente non fa piacere, è una sorta di ordalia, è una tortura, è un rituale di accettazione del gruppo. È chiaro, se gli dà degli strumenti che la parte bullesca di questa vicenda possa avere possibilità di non esprimersi, si fa un favore a loro. Ci fermiamo un istante. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ecco che mi è arrivato il messaggio di Napalm 51, tutto scritto in maiuscolo, con tutte le K, come scrive un cinquantenne pensando di fare il giovane. Pletora di borghesucci vomitanti travestiti da rivoluzionari più falsi, ipocriti, straviziati, incanagliti dal mammismo, scudo di casa e scuola, inoltre chiamiamo violenza un po' di botte, se i genitori puniscono ma non vogliono vedere la violenza diffusa e mortale di questi impuniti grazie ai pacifisti diseducanti. Ecco, questo è uno che sogna di picchiare i figli. Anna, buongiorno. Buongiorno, volevo raccontare la mia esperienza e volevo dire che mio figlio, 15 anni, si è fatto una ciucca con i suoi amici, 15 anni di bambino, di ragazzo, e è stato male, ha vomitato, gli ho preso la testa e gliel'ho messa nella tazza del bagno. Poi, come seconda cosa, ho preso in mano il telefono, ho telefonato i carabinieri di Treviglio e ho detto a mio figlio gli è stato somministrato 4 litri di birra e mi dispiace, adesso io denuncio questo bar perché non poteva somministrare dell'alcol a mio figlio. Lei sapeva qual era il nome del bar? Sì, sì, Sì, sì, lui ha confessato, mentre stava lì con la tazza, con la testa nella tazza, ha confessato. No, ha confessato, gli ho detto solo dove sei stato per essere arrivato. E mi ha detto era un bar discoteca. Quindi c'era un compleanno di un suo amico, questo ha offerto birre a tutto, a fiumi di birra, però non ha considerato che mio figlio aveva 15 anni. Quindi la responsabilità io non la do all'amico che ha pagato da birra, la responsabilità era dell'adulto, del barista, che aveva un gruppo di ragazzi che festeggiavano un compleanno e che doveva dire basta al primo litro che veniva dato. I carabinieri mi hanno risposto, mi hanno detto ha fatto bene a segnalarlo, però il barista non poteva chiedere la carta d'identità ai ragazzi perché non è un pubblico ufficiale. E ho capito, ma a 15 anni non lo si vede se sei un po' sveglio come barista. Seconda cosa, noi non possiamo arrivare dappertutto perché abbiamo 35 paesi al sabato sera. E ci sta, questo ci sta, questo è chiaro, ci sta. Il carabiniere che deve fare, certo. E poi? Com'è finita? No, ho detto, io ve lo segnalo, pretendo che andate a fare un giro a controllare ogni tanto che questi qui vanno da somministrare l'alcol ai minorenni e chiedete la carta d'identità ai ragazzi che ci sono, visto che il barista non lo può fare. Com'è finita la sua storia? Com'è finita? È finita che i carabinieri mi hanno ringraziato, mio figlio dopo due sberle che gli ho dato sulla testa per fargli capire in che stato che era. Già che ce l'aveva lì infilata nella tazza, era anche bene a portata di mano, certo. Sì, non ha più assolutamente bevuto, lo fa adesso quando è più adulto, ma però moderatamente, sa che perché io ho fatto la barista. Io avevo gente che, un vigile che mi diceva se lei somministra solo una cosa all'alcol a un bimbo di 16 anni io la multo perché è vietato l'alcol. Perfetto, è chiaro. Anna, ferma lì. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare invece la storia di mio figlio che adesso è decisamente più grande. Il problema purtroppo è anch'esso diventato molto più grosso. Però ha iniziato da giovane, a 15-16 anni, purtroppo esattamente quando ha iniziato non lo sappiamo perché era più furbo dei suoi coetanei e si fermava, probabilmente si prendeva quelle che lui chiama le piombe quando si fermava a casa a dormire da qualche amico, per cui non è mai tornato a casa ubriaco quando era piccolo. La piomba, diciamo. Che vuol dire la piomba? Non la conosco. I ragazzi qui lo chiamano così, quando vogliono ubriacarsi, si chiama, noi abitiamo in provincia di Brescia, la chiamano, ci prendiamo una piomba. Ah, come la chiusa, ci si chiude in casa e si fa di tutto. Solo che la chiusa aveva un'accezione più godereccia, devo dire, che ubriacarsi con gli amici, comunque va bene. La piomba. Lui ha cominciato lì, purtroppo invece come ha compiuto i 18 anni... ha detto adesso sono maggiorenne, faccio quello che voglio. C'ha ragione. E lì ha cominciato a tornare a casa ubriaco marcio, da non riuscire neanche a salire le scale. Gli tolga le chiavi di casa e dice se vuoi tornare ubriaco va da un'altra parte, maggiorenne. Non è legale, non si può. Se non hanno un reddito e un tetto sopra la testa è vietato. Fino a che età, è vero? Portato dallo psicologo, lo psicologo gli ha detto se sei maggiorenne vieni in psicoterapia se vuoi tu, e lui ha detto io non ci voglio andare. C'ha un figlio alcolista e questo è un altro problema, però è uno grande. Però mi hanno detto di no, che non si parla di alcolismo, lui a casa non ha mai bevuto, non gli piace il vino, non, a tavola non... C'ha un figlio leggermente stronzo, capita, può succedere a tutti. Quando crescerà e troverà una maniera per usare meglio il suo tempo e non c'avrà una mamma che ogni sera gli mette le pezzole calde sulla testa e gli pulisce il vomito per terra, forse cambierà abitudine. È finita, alla prossima.